comodi, comodi, prego. Buongiorno, siamo qui in aula. Grazie, assistente. Siamo qui in aula con la causa numero 454-2001. La difesa è dell'avvocato Gula, chi è morto, chi è chiesto. Avvocato della papiglia, a lei. Tutti in aula, non ci bestemmi. Vabbè, la stessa cosa. Non... la casa mia. No! Qua siamo nella causa degli italiani, che la legge è quasi uguale per tutti. Comunque. Tutti meno uno. E me la faccio. Vabbè, comunque. Signor giudice, signore della corte, gente del pubblico che ci segue in diretta e in differita su Telebra Cassata. Intanto voglio mandare un abbraccio ad uno a tutti quelli che ci seguono dalle case di riposo. Di cura, allora, sì, pure noi, sì. E dagli ospedali, ma soprattutto a quelle delle carceri, che mi scrivono sempre più numerosi dicendomi perché tu sei fuori e noi dentro per colpa tua. Avvocato, se ha finito i preamboli, a parte con la difesa, glieni saremmo tutti, che da così veniamo alla casa. Sì, grazie. Avete preso questo giudice dalla base dell'Esavo, dalla valle dell'Esavo, non dalla base. Ma lei vuole essere radiato dall'albo? No, grazie a Dio sono già radiato. A posto, così. Ma io faccio Medina perché è ridicola la casa di oggi. Hanno ammazzato ad una di Acre! Avete presente quella con gli occhi storti che sembra Gianni Di Marzio? Pensate, ha una sorella più brutta in un San Bernardo. Sembra un incrocio tra un topo in coma e un gatto morto. Ecco, signor giudice, noi non dobbiamo condannare l'omicida, ma farlo santo! Basta, basta! Devo sgombrare l'aula! Giudice, scusi il pubblico per la troppa foga, ma come vi ho detto, la causa di oggi è ridicola! E quindi questi poveri cristiani, regolarmente pagati, per fare le comparse, devono pur divertirsi in un modo o nell'altro. Ma se noi condanniamo quest'uomo, che dire di questi che abbandonano i cinesi al bivio del Settebello? Di questi che mettono sempre la difesa a tre come Mazzarri e che sperano nelle ripartenze. Di questi che chiedono lo sconto alla Rinascente perché si volevano fare un toast provo del prosciutto. O di questi che truccano i motorini portando il motore quasi come una BMW. O di questi che sono senza foto su Facebook. Il suo cliente è stato trovato a casa con un Kalashnikov, un modello Sniper a casa. Aspetta! E ti faccio sentire pure la registrazione. Grazie, signor giudice. Ma che siamo in al varietà? Basta! Basta! Avvocato Parascandolo, quando si parla dell'accusa, accuso. Oh, basta, ecco. Comunque il modello era modello Sernicek, tanto per essere esatto. Ma tutto su casino non lo facevi. No, non c'è il silenziatore Sernicek. Vabbè, giudice, mi meraviglia e comunque mi sorprende. Caro Padozzi, anche lei ha qualche bomba a mano sotto al letto, sotto al cesso, come quello di arma letale. Cosa ne sale? Prendete il caffè di particolare. E infatti, visto che parnetico sì, ha voglia, mio caro giudice, devo dire, chi siamo noi per dire chi è web, chi è radio e chi è Luzzi? Chi siamo noi per dire se è giusto bere il caffè della Peppina di mattina, né col latte né col tè, ma perché? Chi siamo noi per fare le tesi di laurea sulla Gelmini? E soprattutto chi siamo noi per presentarci al caseificio Roberti con la cash sonante? Ma si è cacciato pure un cappello, chissà, vabbè. Ma se lo ricordo, lupo Alberto, la storia di questo animale che voleva sposare la gallina Marta. Ecco, dimenticatelo perché ho sbagliato esempio. Volevo dire Antonello Lupus, ma il copione, vabbè, è andato come è andato. Visti gli articoli 221, 343, 348, ambo terno e quaterno del codice penale, questo tribunale fa bingo, condanna il suo cliente all'ergastolo! Che? Una seduta è sciolta, la legge non ha orecchie. Un omicidio è un omicidio! Ma come all'ergastolo? Parla, cliente, questa volta parla, abla. Probabilmente ricorreremo in appello o chiameremo Ivan Cattani a testimoniare. Avvocato, faccia qualcosa. Per ora non facciamo nulla, facciamo la tattica dell'esero, copieremo qualcosa. A posto.